Il digiuno di Ramadan. Il digiuno nei giorni del mese di Ramadan è il quarto pilastro dell'Islam. Il mese di Ramadan è il nono mese dell'anno egiriano e l'anno egiriano è lunare. L'anno lunare è di 350 giorni e sull'anno solare, che è fisso, l'anno lunare si sposta in avanti di 11 giorni ogni anno. I mesi dell'anno lunare, poi, non hanno giorni fissi determinati come quelli del mese dell'anno solare, ma il numero dei giorni del mese dipende dal novilunio, che può verificarsi o 29 o 30 giorni dopo il novilunio del mese prima. Questa caratteristica dell'anno lunare comporta che ognuno dei suoi mesi attraversa tutte e quattro le stagioni, per cui lo stesso mese avrà archi diurni brevi durante l'inverno e lunghi durante l'estate. Poiché questo vale anche per il mese di Ramadan, che è il nono mese dell'anno lunare, ci saranno dei Ramadan con archi diurni lunghi in estate e dei Ramadan con archi diurni brevi in inverno. A causa dell'inclinazione della Terra rispetto ai raggi solari, quando nell'emisfero nord è estate, nell'emisfero sud è inverno. Perciò, mentre i musulmani dell'emisfero nord avranno giorni con archi diurni lunghi, i musulmani dell'emisfero sud avranno giorni con archi diurni brevi. Quando nell'emisfero nord è inverno, nell'emisfero sud è estate, per cui mentre i musulmani dell'emisfero nord avranno archi diurni brevi, quelli dell'emisfero sud li avranno lunghi. Tutti i musulmani del mondo che hanno fatto il digiuno di Ramadan in tutte le stagioni dell'anno solare hanno digiunato lo stesso numero di ore. Il digiuno di Ramadan consiste nel non assumere né cibo né bevanda, nel non fumare, nel non avere rapporti coniugali, nel non ingerire nessun tipo di sostanze, anche medicinali, per via orale e nel non introdurre nel corpo per qualsiasi altra via, iniezioni, via rettale, sostanze o medicinali nell'arco diurno, che inizia all'alba e termina al tramonto per tutti i giorni del mese di Ramadan. All'osservanza dell'obbligo del digiuno sono tenuti tutti i musulmani puberi, maschi e femmine, capaci di intendere e di volere. La rottura involontaria del digiuno non comporta nessuna sanzione, purché, dopo aver preso conoscenza della rottura involontaria, il digiuno venga ripreso. Nel caso che la rottura venga fatta con la consapevolezza di contravvenire al precetto del digiuno, il trasgressore è tenuto a rimediare in uno dei seguenti modi. 1. Offrire un pasto a 60 musulmani bisognosi. 2. Dare a 60 musulmani l'equivalente in denaro di un pasto. 3. Fare un digiuno di 60 giorni. Il digiuno si incomincia prudenzialmente circa un quarto d'ora prima dell'inizio del tempo dell'adorazione rituale dell'alba, Salatul Fajr, e deve essere preceduto dall'intenzione di digiunare per tutto il giorno entrante. L'intenzione si esprime con le seguenti parole: Allahumma nawaitu sauma ghadin insha'Allah. O mio Dio, intendo fare il digiuno di domani se Allah vuole. Il tramonto del sole segna la fine del digiuno e cessa quindi il dovere dell'astinenza. L'astinenza viene rotta a imitazione del profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, mangiando uno o tre datteri e in mancanza di datteri bevendo dell'acqua. La rottura dell'astinenza giornaliera si chiama con parola araba iftar. È tradizione far precedere l'iftar da questa breve preghiera. Allahumma laka samtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. O mio Dio, per amor tuo ho digiunato, ho fede in te e con ciò che tu mi hai elargito ora rompo il digiuno. In tutte le notti del mese di Ramadan, il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, era solito fare, dopo il rito di adorazione del calare delle tenebre, Salatul Isha, una forma particolare di adorazione, costituita da un minimo di 8 rak'at a un massimo di 20, il cui nome è Salatul Tarawih. All'avvicinarsi dell'alba, il profeta faceva una piccola colazione detta suhur con dei datteri e, prendendo come modello il profeta, che Allah lo benedica e la ben gloria, poiché nel suo modus operandi c'è un modello di comportamento per loro, i musulmani fanno anch'essi suhur prima di affrontare una giornata di astinenza. È tradizione far precedere il suhur da questa breve preghiera. Bismillah wa ala barakatillah, nel nome di Allah e con la benedizione di Allah. Quando viene avvistata la luna nuova, il novilunio, o con termine greco la neomenia o neomenia, del decimo mese dell'anno lunare, il mese di Shawwal, a termine il mese di Ramadan e con esso finisce il digiuno. Il primo giorno di Shawwal è la prima delle due solennità festive dell'Islam, Eid al-Fitr, la ricorrenza della rottura. Nel primo mattino viene celebrato lo speciale rito di adorazione congregazionale della solennità festiva della rottura del digiuno di Ramadan, che si svolge all'aperto e a cui tutti i musulmani che vivono in una località sono tenuti a partecipare. Prima dell'inizio del rito di adorazione congregazionale, che in arabo si chiama Salatu Eid al-Fitr, ogni musulmano è tenuto a versare alla cassa della comunità una somma di denaro, Zakatul Fitr, che deve essere pagata anche per il neonato venuto al mondo fino al momento dell'inizio del rito dell'adorazione congregazionale della solennità. L'importo che ogni musulmano è tenuto a versare alla cassa della comunità locale per sé e per ciascun componente della famiglia a suo carico, anche se non deve digiunare, pro capite, è il valore in moneta di un pasto normale. Il profeta Muhammad, che Dio lo benedica e la ben gloria, disse: Allah non accetta il digiuno di Ramadan se esso non è accompagnato da Sadaqatul Fitr. Sadaqatul Fitr è un mezzo di purificazione per chi ha digiunato. Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, dice nel sublime Corano: Allah vuol farvi le cose facili, non vuole affatto farvele difficili. Per questo motivo sono esenti dall'obbligo di digiunare nel mese di Ramadan i malati, qualora il digiuno sia gravemente pregiudizievole alla salute e l'omissione delle cure sia causa di aggravamento delle condizioni del paziente. I viaggiatori, per un viaggio di oltre 81 chilometri, per il tempo d'andata e quello di ritorno, hanno facoltà di non digiunare. Le donne in stato interessante, qualora l'osservanza del digiuno possa essere pregiudizievole alla gravidanza, Le donne che allattano, quando l'osservanza del digiuno può incidere negativamente sulla salute della madre e del lattante, le persone di età avanzata, quando la pratica del digiuno può avere conseguenze negative sullo stato di salute. Invece, il digiuno è proibito alle donne musulmane durante il periodo mestruale e durante il tempo del puerperio. Quando cessano le cause che legittimano l'astensione dal digiuno o le cause di interdizione, l'interessato o l'interessata hanno l'obbligo di recuperare entro il Ramadan successivo i giorni di digiuno obbligatorio che non hanno fatto. Per il caso della persona di età avanzata sono previste due ipotesi. 1. Qualora la persona di età avanzata possa praticare il digiuno per almeno un giorno, l'aver digiunato anche un solo giorno con l'intenzione di digiunare tutto il mese di Ramadan rende adempiuto l'obbligo. Qualora la persona in età avanzata, per le sue precarie condizioni di salute, non sia in grado di digiunare nemmeno per un giorno, l'obbligo del digiuno si ha per adempiuto a con l'offerta di un pasto al giorno per tutti i giorni di Ramadan a un musulmano indigente, b con l'offerta di una somma sufficiente ad assicurare un pasto al giorno per tutti i giorni del mese di Ramadan a un musulmano indigente. Dice Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, nel sublime Corano. O voi che credete, vi è stato prescritto il digiuno, come fu prescritto a coloro che vi hanno preceduto, affinché siate timorati. La sua durata è il mese di Ramadan, nel quale fu rivelato il Corano, guida per gli uomini, documento degli insegnamenti per praticare la rettitudine, criterio per distinguere il bene dal male. Chiunque di voi veda il mese, il cui inizio è indicato dal 9 luglio, lo digiuni, mangiate e bevete fino a quando nella luce dell'alba sia distinguibile il filo bianco dal filo nero, il filo dell'orizzonte orientale. Dopo di ciò fate digiuno fino al calar della notte e ringraziate Allah. Esprimetegli la vostra gratitudine per avervi guidato. E se i miei servi ti chiedono di me, rispondi loro che io sono vicino e rispondo alle preghiere di colui che mi invoca quando a me si rivolge. Rispondano dunque anch'essi all'invito che io loro rivolgo ed abbiano fede soltanto in me, e facendo così che agiranno nella maniera giusta. La prima rivelazione del Corano ebbe luogo nella notte del destino, Lailatul Qadr, che secondo una tradizione consolidata della comunità islamica viene indicata nella notte tra il giorno del 26 e il giorno del 27 del mese di Ramadan. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, disse in proposito che la notte del destino è una delle notti dispari dell'ultima decade di Ramadan. Come disse il profeta, che Allah lo benedica e la ben gloria, chi nella notte del destino fa veglia di adorazione con fede sincera e al solo scopo di adorare Allah riceverà il perdono di tutti i suoi peccati precedenti ad essa. Il profeta Muhammad disse, che Dio benedica e la ben gloria, in questo mese le porte del cielo vengono spalancate, le porte dell'inferno vengono sbarrate e tutti i diavoli vengono messi in catene. In questo mese santo tutte le opere buone compiute dal musulmano hanno presso Allah un pregio di gran lunga superiore alle stesse opere compiute negli altri mesi dell'anno. Ramadan è il mese dello sforzo per arricchire la spiritualità, per accrescere la fede, per approfondire la scienza religiosa, per aumentare il timore di Dio, per migliorare la condotta morale e dar maggior vigore alla pratica dell'Islam, per intensificare la diffusione della parola di Allah e affermarne il primato su qualsiasi parola dell'uomo. Ramadan è il mese del colloquio dell'io con sé medesimo, è il mese dei bilanci e dei programmi, è il mese del rafforzamento dei propositi di camminare sulla diritta via, nella salvifica luce del sublime e sapiente Corano e dell'insegnamento del profeta Muhammad, che Allah lo benedica la ben gloria. Ramadan è il mese in cui i primi musulmani, costretti alla battaglia dall'ingiustizia, nell'anno secondo dell'Egira, riuscirono vincitori, con il favore di Allah, nello scontro armato con le soverchianti forze della miscredenza idolatrico-politeistica della Mecca, avvenuto all'Ose di Badr il giorno 17 del mese di Ramadan, e nel giorno 20 del mese di Ramadan dell'anno ottavo dell'Egira, la Mecca venne liberata dal dominio politeistico e la nobile Kaaba venne purificata dall'abominio degli idoli. Quando due musulmani si incontrano in Ramadan dopo l'augurio di pace Assalamu alaikum e la risposta Wa alaikum assalam wa rahmatullah, si scambiano l'augurio di Ramadan dicendo Ramadan Karim, generoso Ramadan, e rispondendo Allahu Akram, Allah è più generoso assai.